Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar. Introduzione di Giorgio Ficara. Buongiorno, sono Giorgio Ficara. Parliamo oggi di Marguerite Yourcenar, le memorie di Adriano. E la prima cosa che in effetti mi colpisce, leggendo, anzi meglio rileggendo questo strano oggetto che non si sa bene che cosa sia, romanzo, romanzo saggio, non romanzo, saggio filosofico, teoria del romanzo, eccetera, è una piccolissima dichiarazione che la Yourcenar pospone immediatamente dopo il 51, quando ha pubblicato il libro nei suoi taccuini, proprio in riferimento a questa nozione di genere romanzesco. Dice: oggi il romanzo divora tutte le forme, poco a poco si è costretti a passarci. Questo studio, cioè le memorie di Adriano, sul destino di un uomo che si chiamò Adriano nel XVII secolo, sarebbe stato una tragedia, all'epoca del Rinascimento un saggio. Ecco, questa idea della Yourcenar, cioè come dire della costrizione di un genere, mi è sembrata piuttosto acuta a proposito di questa narrazione che contiene diverse cose alla rinfusa, come una olla podrida spagnola, cioè contiene tante cose, saggio, ripeto, avventura, filosofia, narrazione pura, fisiologia, eccetera, eccetera. E esprime però una cogenza, una specie di coazione, direi, che nelle quali c'è molta aria del Novecento, c'è molto Ortega e Gasset nell'idea sopra la novella, c'è molto Adorno, c'è molto Benjamin, c'è molta teoria del romanzo, dell'antiromanzo, che in questo caso vengono assolutamente prese in considerazione. Cioè, il romanzo in qualche modo è una specie di strettoia nella quale la Yourcenar si vede costretta a passare per fare, come dire, per introdurre i suoi argomenti. Il romanzo è in una strettoia, ma è anche una possibilità, una prescrizione conoscitiva, cioè come diceva Ortega in quel vecchio saggio del 25 che probabilmente la Yourcenar ha in mente, cioè idea sopra la novella, idea sul romanzo, e in effetti il romanzo proprio in questo momento di quasi agonia, preagonico, che sarà la seconda metà del Novecento, è al massimo delle sue possibilità conoscitive. Ecco, proprio al massimo di queste possibilità conoscitive noi situiamo la storia di questo strano imperatore Adriano, con tutto quello che questa cosa, che noi chiamiamo così romanzo sulla scia di questa indicazione da Yourcenar, contiene, cioè contiene fisiologia, queste osservazioni mirabili che fa la Yourcenar, per esempio sul sonno, attraverso sempre per bocca di Adriano che scrive a Marco Aurelio nella finzione di questo essè romanzesco, il sonno che è una specie di tuffo in un oceano in cui ci vengono incontro i morti, e poi la narrazione, che è i parenti, per esempio il vecchio Avo Marullino che è una specie di astrologo e mago, e poi le avventure vere e proprie, c'è quella bellissima pagina sulla caccia al leone nell'oasi di Ammona che è vicino ad Alessandria d'Egitto, che è degna veramente di un grande romanzo dell'Ottocento. Ci sono poi le sentenze, questo tono apoftegmatico proprio che spesso è di questo imperatore, che ogni tanto ne dice una, insomma, per esempio quella sul luogo natio, ma il vero luogo natio, dice, cito a memoria, è quello in cui noi per la prima volta conosciamo noi stessi, non è dove siamo nato, eccetera, e poi quello che la maggior parte degli uomini compie il bene e il male indifferentemente, eccetera. C'è questo tono continuamente sentenzioso, un po' gnomico, che percorre tutto questo romanzo, e poi anche le osservazioni filosofiche, per esempio l'immortalità dell'anima. L'anima sarà veramente immortale come ci insegnano gli stoici oppure no? Oppure c'è qualche piccolo germe di razionalismo materialistico che in qualche modo si fa strada nella cognizione del mondo e dell'uomo di questo straordinario personaggio. Thank you. Mio caro Marco, sono andato stamattina dal mio medico, Ermogene, recentemente rientrato in villa da un lungo viaggio in Asia. Bisognava che mi visitasse a digiuno ed eravamo d'accordo per incontrarci di primo mattino. Ho deposto mantello e tunica, mi sono adagiato sul letto. Ti risparmio particolari che sarebbero altrettanto sgradevoli per te quanto lo sono per me e la descrizione del corpo d'un uomo che si inoltra negli anni ed è vicino a morire di un'idropisia del cuore. Diciamo solo che ho tossito, respirato, trattenuto il fiato secondo le indicazioni di Ermogene, allarmato suo malgrado per la rapidità dei progressi del male, pronto ad attribuirne la colpa al giovane Giolla che m'ha curato in sua assenza. È difficile rimanere imperatore in presenza di un medico. Difficile anche conservare la propria essenza umana. L'occhio del medico non vede in me che un aggregato di umori, povero amalgama di linfa e di sangue, e per la prima volta stamane m'è venuto in mente che il mio corpo, compagno fedele, amico sicuro e a me noto più dell'anima, è solo un mostro subdolo che finirà per divorare il padrone. Basta. Il mio corpo mi è caro, mi ha servito bene e in tutti i modi, e non starò a lesinargli le cure necessarie, ma ormai non credo più, come finge ancora Ermogene, nelle virtù prodigiose delle piante, nella dosatura precisa di quei sali minerali che è andato a procurarsi in Oriente. È un uomo fine, eppure m'ha propinato formule vaghe di conforto, troppo ovvie per poterci credere. Sa bene quanto detesto questo genere di impostura, ma non si esercita impunemente più di 30 anni la medicina. Perdono a questo mio fedele il suo tentativo di nascondermi la mia morte. Ermogene è dotto, è persino saggio, la sua probità è di gran lunga superiore a quella d'un qualunque medico di corte. Avrò in sorte d'essere il più curato dei malati. Ma nessuno può oltrepassare i limiti prescritti dalla natura. Le gambe gonfie non mi sostengono più nelle lunghe cerimonie di Roma. Mi sento soffocare e ho 60 anni. Sono giunto a quell'età in cui la vita è, per ogni uomo, una sconfitta accettata. Dire che ho i giorni contati non significa nulla. È stato sempre così. È così per noi tutti. Ma l'incertezza del luogo, del tempo e del modo che ci impedisce di distinguere chiaramente quel fine verso il quale procediamo senza tregua diminuisce per me col progredire della mia malattia mortale. Chiunque può morire da un momento all'altro, ma chi è malato sa che tra 10 anni non ci sarà più. Il mio margine di incertezza non si estende più su anni, ma su mesi. Le probabilità che io finisca per una pugnalata al cuore o per una caduta da cavallo diventano quanto mai remote. La peste pare improbabile. La lebbra e il cancro sembrano definitivamente allontanati. Non corro più il rischio di cadere ai confini, colpito da un'ascia caledonia o trafitto da una freccia partica. Le tempeste non hanno saputo profittare delle occasioni loro offerte e sembra avesse ragione quel mago a predirmi che non sarei annegato. Morirò a Tivoli o a Roma, tutt'al più a Napoli, e una crisi di asfissia sbrigherà la bisogna. Sarà la 10ª crisi a portarmi via o la 100ª? Il problema è tutto qui. Come il viaggiatore che naviga tra le isole dell'arcipelago vede levarsi a sera i vapori luminosi e scopre a poco la linea della costa, così io comincio a scorgere il profilo della mia morte. Thank you. Non vado più a caccia. Se non ci fosse altri che io a disturbarli, mentre ruminano e giocano, i caprioli dei Monti d'Etruria potrebbero vivere tranquilli. Con la Diana delle foreste ho avuto sempre i rapporti mutevoli e appassionati d'un uomo con l'oggetto amato. Adolescente, la caccia al cinghiale mi ha offerto le prime occasioni di conoscere l'autorità e il pericolo. Mi ci dedicavo con passione. I miei eccessi in questo esercizio mi attirarono le rampogne di Traiano. La spartizione della preda in una radura della Spagna è stata la mia prima esperienza della morte, del coraggio, della pietà per le creature e del piacere tragico di vederle soffrire. Uomo fatto, la caccia mi rilassava da tante lotte segrete contro avversari di volta in volta troppo sottili o troppo ottusi, troppo deboli o troppo forti per me. È una lotta pari tra l'intelligenza umana e l'astuzia delle fiere. E sembrava stranamente pulita in paragone con gli agguati degli uomini. Imperatore, le cacce in Etruria mi sono servite per giudicare il coraggio o le capacità dei miei alti funzionari. Ivi ho scartato o prescelto più d'un uomo di Stato. Più tardi, in Bitinia, in Cappadocia, le grandi battute di caccia mi fornirono un pretesto di feste, di trionfi autunnali nei boschi dell'Asia. Ma il compagno delle mie ultime cacce è morto giovane e il desiderio di questi piaceri violenti è molto scemato in me dopo la sua dipartita. Pure, persino qui a Tivoli, basta l'improvviso sbuffare d'un cervo sotto le fronde perché trasalisca in me un istinto più antico di tutti gli altri, grazie al quale mi sento Gattopardo quanto imperatore. Chissà, forse sono stato così parco di sangue umano perché ho versato tanto quello delle fiere. Benché talvolta segretamente le preferissi agli uomini. La loro immagine, comunque, mi torna alla memoria più spesso e m'è difficile non abbandonarmi ogni sera a interminabili racconti di caccia che mettono a dura prova la pazienza dei miei invitati. Certo, il ricordo del giorno della mia adozione mi è dolce, ma quello dei leoni uccisi in Mauritania lo vale. Il mio cavallo surrogava i mille concetti inerenti al titolo, alla funzione, al nome, che complicano le amicizie umane con la sola conoscenza del mio peso esatto. I miei slanci erano per metà suoi, conosceva con precisione e forse meglio di me il momento in cui la mia volontà divergeva dalle mie forze. Ma non infliggo più al successore di Boristene il peso d'un malato dai muscoli afflosciati, troppo debole per issarsi in groppa da solo. In questo momento il mio aiutante di campo, Celere, lo sta addestrando sulla strada di Preneste. Tutte le mie esperienze di velocità mi consentono di condividere il piacere del cavaliere e quello dell'animale, di valutare le sensazioni d'un uomo lanciato a briglia sciolta in una giornata di sole e di vento. Quando Celere balza da cavallo, io riprendo contatto col suolo insieme a lui. Lo stesso accade col nuoto. Io vi ho rinunciato, ma partecipo ancora alla delizia del nuotatore carezzato dall'acqua. Correre, perfino sul più breve dei percorsi, oggi mi sarebbe impossibile, quanto lo sarebbe a una statua massiccia, a un Cesare di pietra. Ma ricordo le mie corse di fanciullo sulle arse colline della Spagna, il gioco che si fa con se stesso allorché, trafelati sino ai limiti della resistenza, si sa che il cuore saldo, i polmoni intatti ristabiliranno l'equilibrio. E provo, con il più oscuro tra gli atleti che si allenano alla corsa di fondo nello stadio, un'intesa che l'intelletto da solo non saprebbe darmi. Così, da ciascuna delle arti che praticai a suo tempo, traggo una conoscenza che mi compensa in parte dei piaceri perduti. Ho creduto, e nei miei momenti migliori lo credo ancora, che in tal modo si potrebbe partecipare all'esistenza di tutti, e questa simpatia essere uno degli aspetti meno revocabili dell'immortalità. Ho avuto momenti in cui questa comprensione ha tentato di oltrepassare la sfera dell'umano, si è rivolta dal nuotatore all'onda. Ma poiché in questo campo non c'è nulla di preciso a rendermi edotto, entro nella sfera delle metamorfosi che appartengono al sogno. Mangiar troppo è un vizio romano. Io sono stato sobrio con voluttà. Ermogene non ha dovuto modificar nulla del mio regime, se non forse frenare l'impazienza che mi ha sempre fatto divorare ovunque, in qualsiasi ora, un cibo qualsiasi, come per troncare d'un colpo le esigenze della fame. Un uomo ricco che non ha mai conosciuto altre privazioni che quelle volontarie, o non ne ha sperimentate se non a titolo provvisorio, come uno degli incidenti più o meno eccitanti della guerra e dei viaggi, dimostrerebbe cattivo gusto se si vantasse di non satollarsi. Impinzarsi i giorni di festa è stata sempre l'ambizione, la gioia e l'orgoglio naturale dei poveri. A Roma, durante i lunghi pranzi ufficiali, mi è accaduto di pensare alle origini relativamente recenti del nostro lusso, a questo popolo di coloni parsimoniosi e di soldati frugali, satolli d'aglio e di orzo, improvvisamente immersi dalla conquista nelle delizie della cucina asiatica, che ingozza Manicaretti con la voracità rustica dei contadini. I nostri romani si rimpinzano di cacciagione, si inondano di salse e si intossicano di spezie. In Grecia se ne intendono di più. Quel vino che sa di resina, quel pane al sesamo, quei pesci girati sulla griglia in riva al mare, anneriti irregolarmente dal fuoco, insaporiti qua e là da un granello di sabbia che scricchiola sotto i denti, si limitavano a placare l'appetito, senza sovraccaricare di complicazioni il più elementare dei piaceri. Ho assaporato in qualche bettola di Egina o al Falero cibi così freschi che restavano divinamente puliti a onta delle dita sudice dello sguattero che mi serviva, così sobri ma al tempo stesso così sostanziosi che pareva contenessero nella forma più condensata possibile un'essenza di immortalità. Anche la carne, arrostita la sera dopo la caccia, conteneva questa qualità, direi quasi di sacramento, ci riportava indietro alle origini selvagge delle razze. Così il vino ci inizia ai misteri vulcanici del suolo, ai suoi misteriosi tesori. Bere una coppa di vino di Samo a mezzogiorno, col sole alto, o piuttosto sorseggiarlo una sera d'inverno, quando si è in quello stato di fatica che consente di sentirlo immediatamente colare caldo nella cavità del diaframma e diffondersi nelle vene ardente e sicuro. Ah, sono sensazioni quasi sacre, persino troppo violente per la mente umana. Non le ritrovo altrettanto genuine quando esco dalle cantine numerate di Roma e mi spazientisce la pedanteria dei conoscitori di vigneti. Così, con un gesto ancor più devoto, bere l'acqua nel cavo delle mani o direttamente alla sorgente fa sì che penetri in noi il sale più segreto della terra e la pioggia del cielo. Ma oggi anche l'acqua è una voluttà che un malato come me deve concedersi con misura. Non importa. Anche nell'agonia, mescolata all'amaro delle ultime pozioni, mi sforzerò di sentirne sulle labbra la freschezza in sapore. Nelle scuole di filosofia, dove è di prammatica provare una volta per tutte ogni regola di condotta, ho sperimentato per breve tempo il regime vegetariano e, più tardi, in Asia, ho visto i ginnosofisti indiani volgere il capo alla vista degli agnelli fumanti e dei quarti di gazzella serviti sotto la tenda di Osroe. Ma questa astinenza nella quale si compiace la tua austerità giovanile esige attenzioni complicate più della golosità. Trattandosi di una funzione che si svolge quasi sempre in pubblico, il più delle volte sotto il segno della pompa o dell'amicizia, finirebbe per distinguerci troppo dagli altri. Ah, preferisco nutrirmi tutta la vita di oche ingrassate e di galline faraone, anziché farmi accusare dai commensali a ogni pasto di un'ostentazione di ascetismo.